Dottore, dice il paziente, dottore, ho le emorroidi. Questo lo dice lei, ribatte prontamente il medico. È qui che il paziente comincia a mostrare buona parte della sua pazienza. Gli fa il quadro della situazione, un quadro della situazione che in tutto e per tutto corrisponde alla sintomatologia tipica di chi ha le emorroidi. Dobbiamo fare delle analisi, ribatte il medico. Quali analisi, scusi, chiede il paziente. Quali analisi? Che io abbia le emorroidi glielo dico io, ma nel caso lei non si fidasse, può controllare di persona. E visto che il medico storce il naso, il paziente prosegue: capisco che lei ne possa essere poco entusiasta, capisco che siano lontani i tempi di quel bravo medico di famiglia che un giorno mi mostrò orgogliosamente il polpastrello del dito medio della mano destra dicendo 6.000, vede questo polpastrello, 6.000 prostate l'anno, alla sensibilità di un radar biologico. Capisco che forse preferirebbe dover controllare direttamente altri orifizi o orifizi altrui, ma si dà il caso che ora è qui il paziente sia io e che sia io che ho le emorroidi, non Emanuele Béart né Anna Falchi. Si faccia prossimo, in tutti i sensi che vuole, si faccia prossimo, metta una mano sulla coscienza e l'altra la usi alla meno peggio, ma tenga gli occhi aperti, controlli, lei controlli, inutili e costose sono le analisi, se ne può fare a meno, e dunque facciamone a meno, constaterà de visu le mie emorroidi e mi prescriverà qualche portento che le farà regredire, almeno fino a quello stato di potenza, l'avrebbe detto anche Aristotele, in cui danno meno fastidio che in atto. No, dice il medico. Non ci sono portenti che facciano regredire le emorroidi e non è affatto detto che siano emorroidi. Occorre fare analisi. E il paziente tace, acconsente, subisce, dice flebilmente quali analisi e vede rischiararsi la faccia di chi gli sta dinanzi di una luce di soddisfazione interiore. Gliele scrivo subito. Giorni dopo il paziente fa parte di una lunga colonna di deportati dell'ideologia medica che si snoda lungo tre lugubri stanzoni di un ospedale, è preoccupato per le sue emorroidi e sta attendendo stoicamente il suo turno. Gli cavano 4 fiale di sangue per verificare se ha l'AIDS, la sifilide, la tabe dorsale, l'epatite virale, la talassemia major o quella minor, il lupus erimatosus, il penfigo, la sindrome di Kawasaki, il fenomeno di Raynaud e lo sa Dio quant'altro ancora. Giorni dopo, il paziente ritira le sue analisi, aspetta l'ora giusta, è sempre più preoccupato per le sue emorroidi e telefona al medico, gli legge i risultati. Occorre una visita specialistica, sentenzia il medico. Giorni dopo il paziente si presenta all'appuntamento, gli si fa incontro una gentile signora, garrula e baldanzosa. Ne sono passati di giorni, il paziente è preoccupato sempre di più per le sue emorroidi e come a chi è in ballo tocca ballare, supera gli imbarazzi del pudore e si sottomette all'analisi specialistica che dura esattamente 30 secondi. Lei ha le emorroidi, dice la signora. Lo so, ribatte il paziente. Vorrà mica farsele togliere, chiede la signora. Nemmeno morto, dice il paziente. Bravo, se le tenga. Piuttosto, senta, ecco, guardi, le do un portento che in 4 e 48 gliele fa regredire. Per carità di patria, la chiudiamo qua. faccio una pausa con un racconto, diciamolo, paleornitologico. Allora, dice Lichtenberg, e in due suoi quaderni composti tra il 1766 e il 1793, dice che l'ibis, il famoso uccello sacro d'Egitto, diciamolo così che è meglio, l'ibis si faceva i clistiri da solo. Anacleto Verrecchia, in una nota dello Scandaglio dell'Anima, rivela la fonte di questa notizia scoprendola nel primo volume di un'opera di Johann August Ephraim Goetze, Natur, Menschenleben und Forschung, che dice l'Oliva che vuol dire natura, vita umana e preveggenza, scritta nella prima metà del Settecento. È qui che si dice come gli antichi medici egizi avessero imparato la suprema arte del clistere proprio osservando questi graziosi uccelli che, grazie all'elegante curvilineità del proprio becco, potevano davvero ficcarlo dappertutto, magari anche autooperandosi. Dottore, dice il paziente, dottore, soffro di allergia da polline di graminacea e quest'anno, senta, non vorrei soffrire lo stesso inferno degli altri anni. Proviamo con il vaccino. Ah no, dice il medico. Che lei soffra di allergia da polline di graminacea lo dice lei. I vaccini li si fa a ragion veduta. Occorre fare delle analisi. Mi scusi dottore, ma le analisi le ho già fatte e non soffro di graminacea da ieri, ma da 20 anni, maledizione, 20 anni in cui puntualmente, maledettamente, sto male, malissimo, nei giorni in cui quelle bestiacce infami sputano fuori il loro veleno, graminacee. E qui il medico ha un sorriso di innegabile superiorità. 20 anni fa, lo dice fin indulgente, 20 anni fa, signore, 20 anni fa, quando lei ha fatto le analisi, lei era allergico alle graminacee? Ma mio caro signore, deve sapere che le allergie evolvono. Oggi le cose potrebbero essere radicalmente cambiate e dunque le analisi vanno rifatte. Non posso certo farle un vaccino. Prima si fa le analisi, poi si vedrà. E il paziente comincia a perdere davvero la sua pazienza. Scusi dottore, facciamo pure il caso che io, ecco, facciamo il caso che io nel frattempo sia diventato allergico anche agli escrementi di armadillo, alle cucurbitacee ed ai peli di bonobo. Ammettiamolo pure. Bene, le dichiaro, se vuole per iscritto, che sono disposto a continuare a soffrire per queste infauste allergie purché lei mi libera da quelle delle graminacee. Lei mi vaccina per queste e dal resto me la cavo da me, per le altre sono disposto a continuare a soffrire. Facciamo così? No. O si rifanno le analisi o niente. Niente. Niente, con tutte le conseguenze di questa scelta, che a questo punto è una scelta etica e politica. Siamo soli, sofferenti, schiacciati sotto la macina di un sistema privo di senso e pur tuttavia autorevole, ma perlomeno orgogliosi della nostra deontologia non professionale.